Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Bentornati a un nuovo appuntamento con Radio Doc, la trasmissione di Radio 24 che in collaborazione con History Channel vi presenta ogni settimana le migliori produzioni documentaristiche per la TV in una riduzione radiofonica. Questa sera vi proponiamo un documentario prodotto dalla BBC sulle tradizioni circa la fine del mondo, che ciclicamente tornano a far capolino tra le pieghe di Internet e la pubblicistica più o meno esoterica. In questi ultimi mesi è piuttosto in voga la previsione del 2012 come anno nodale nella storia dell'evoluzione del mondo. È il 21 dicembre 2012. Il sole non sorge. Tutto rimane buio. Il mondo è giunto alla sua fine. Molte antiche culture di tutto il mondo hanno descritto eventi allarmanti che sembra si stiano per verificare ora. Il 2012 è forse l'anno in cui le lancette dell'orologio cosmico segneranno la fine dei giorni e di ogni speranza? Decodificare le profezie finali di Nostradamus potrebbe fornire le risposte cruciali prima che scocchi il fatidico 2012. Il documentario ricostruisce e propone in chiave realistica le fosche previsioni di numerosi autori che si dedicano allo studio delle civiltà antiche, dei libri di profezia e, principale fonte di ispirazione, di Nostradamus, astrologo, scrittore e farmacista francese del 1500, noto in tutto il mondo per il suo libro di profezie. Oggi molte persone, frustrate dall'incapacità della scienza di rispondere ad alcuni dei più profondi quesiti del nostro tempo, guardano al passato. Ed è lì che trovano i grandi veggenti come Nostradamus. Il nostro pianeta si trova ad affrontare crisi di una complessità allarmante. Carenze di petrolio, specie in estinzione, tsunami mortali, caos economico e minacce nucleari. È una coincidenza o sta per verificarsi qualcosa di ancor più minaccioso? Tutto sembra indicare il fatto che nel 2012, dal punto di vista della Terra, il Sole si allineerà con il centro della Via Lattea, in un fenomeno astronomico estremamente raro, che avviene solo una volta ogni 26.000 anni. Secondo varie culture antiche, questo allineamento darebbe inizio a un periodo di profondo cambiamento. Una delle più importanti civiltà antiche che si ritiene abbia osservato questo fenomeno è quella Maya, nota per le sue approfondite conoscenze astronomiche. Il loro avvertimento che questo allineamento del Sole con il centro della galassia, noto come buco nero, possa portare terribili conseguenze, sembra essere ripetuto da molte culture antiche. La maggior parte di queste profezie sulla fine dei tempi e di queste visioni apocalittiche sul futuro si basa sull'idea che quando il Sole sorgerà nel cosiddetto buco nero si genererà un cataclisma che seminerà morte e distruzione. Nostradamus, come i Maya e altre culture che lo hanno preceduto, osserva le stelle e scorge un imminente pericolo. Grande sarà di sangue lo spargimento, che in terra, mare e aria, cielo, sarà ingiusto. Sette, fame, regni, peste, confusione. Personaggio controverso e avvolto nel mistero, Nostradamus muore quasi 500 anni fa, quindi molti secoli prima del 2012. Ma spesso le sue predizioni vengono interpretate come estremamente accurate. Il 21 dicembre del 2012 si avvicina. Segnerà un evento catastrofico, come suggeriscono alcune culture antiche? Molti credono che la data porti con sé un raro fenomeno astrologico, definito allineamento galattico, che potrebbe innescare un caos senza precedenti. È forse la prova della conoscenza antica di un evento futuro? Nostradamus usa una varietà di metodi per ricavare le sue quartine. Ma la conoscenza dei cieli è fondamentale per il suo lavoro. È un astuto astrologo, che crede che la mappa del futuro sia codificata nelle stelle. In una certa misura, la sua capacità di prevedere il futuro si basa sull'idea che il tempo è ciclico, che il Sole, la Luna e le stelle si muovono e che, poiché questi movimenti si ripetono nel tempo, ci sono eventi simili tra loro. Per tracciare sulla carta questi eventi futuri, Nostradamus studia i cambiamenti nel cielo notturno, alcuni dei quali impiegano decenni per verificarsi. La rotazione fuori asse della Terra fa sì che la nostra visuale delle stelle si sposti molto lentamente, cambiando solo di un grado ogni 72 anni. Sorprendentemente, alcuni ricercatori credono che il fenomeno fosse stato individuato con precisione dall'antica civiltà Maya. Grazie alla loro grande abilità nel comprendere i movimenti della Terra, i Maya crearono un calendario estremamente preciso, che è durato migliaia di anni e che finirà il 21 dicembre del 2012. Ogni 26.000 anni c'è un allineamento fra la Terra, il Sole del solstizio d'inverno e quello che è il centro della Via Lattea. Sembra questo il motivo per cui i Maya hanno scelto il 21 dicembre 2012 come termine del loro grande ciclo. Secondo i Maya, il buco nero nel centro della Via Lattea era l'ombelico della galassia da dove si erano originate le stelle. E oggi gli astronomi affermano che quel buco nero altro non è che il luogo da dove si è formata la materia di cui sono fatte le stelle e i pianeti. Niente male per degli astronomi di 15 secoli fa. Secondo i ricercatori, i Maya fanno coincidere la fine del loro calendario con il prossimo allineamento del 2012. Si tratta forse di un tentativo per mettere in guardia le future generazioni? La domanda è: com'è possibile che i Maya e Nostradamus abbiano avuto la stessa idea? E perché adesso che ci avviciniamo al 2012 il mondo sembra andare in malora? Che è proprio ciò che hanno predetto. Le quartine di Nostradamus contengono interessanti avvertimenti sui pericoli che potrebbero attenderci. Per il calore salito dal mare, i pesci di Negroponte saranno mezzi cotti. Quando Rodi e Genova resteranno senza biscotto. Alcuni studiosi credono che questa quartina di Nostradamus indichi il surriscaldamento globale come causa di un'imminente crisi. Nostradamus sembra descrivere il surriscaldamento globale come un fuoco nel cielo, come qualcosa di simile a un sole rovente. Nostradamus sembra predire le estreme conseguenze di un cambiamento climatico. Quinta Centuria, quartina 98. A 48 gradi climaterici, a fine del cancro, sì grande secchezza. Pesce in mare, fiume e lago, cotto etico, per fuoco in cielo. Il libro perduto di Nostradamus parla di un'era in cui la scienza della profezia e dell'astronomia convergeranno in modo tale da cambiare radicalmente il mondo. Nostradamus crede che nelle stelle e nei pianeti sia racchiuso il significato della vita. Tutto ciò è anche al centro della filosofia degli Egizi, che inserivano queste figure celesti nelle loro strutture più importanti. Nei suoi scritti, Nostradamus prevede la distruzione di questi monumenti. Gli Egizi sono stati una delle prime superpotenze mondiali. Il loro possibile timore per un'imminente calamità potrebbe avere delle inquietanti similitudini con il nostro tempo. Il governo dell'antico Egitto investiva così tanto denaro nelle guerre che andò in rovina. Gli operai non venivano pagati, così ci furono degli scioperi. Inoltre, poiché il clima era cambiato, i raccolti non crescevano più come in passato. C'era carenza di cibo. E tutti questi fattori contribuirono al crollo di una delle più grandi civiltà della storia del nostro pianeta. E senza dubbio è possibile paragonare quanto è accaduto a quella civiltà con quanto sta accadendo ora. Stiamo sollevando un tema molto esoterico. Se qualcuno in Occidente, non molte centinaia di anni fa, ne avesse parlato e avesse detto «Io so quando avverrà la fine dei tempi», sarebbe stato bruciato sul rogo. È un sapere al tempo stesso molto importante e pericoloso, di cui solo ora possiamo parlare apertamente. Anche Nostradamus teme delle ripercussioni per le sue cupe predizioni e le mette sotto forma di strofe in quattro versi, dette quartine. Come gli Egizi prima di lui, legge la volta celeste come una mappa stradale, cercando di trovare indizi riguardanti la fine dei tempi. Congiunta qui, manifestatasi nel cielo. Entra. Poca pioggia. Il cielo e la terra si fanno aridi. Distruzione, morte, caos. Arrivati in un tempo funesto. Come gli egizi, Nostradamus crede che i messaggi riguardanti il futuro siano scritti nei cieli. Nostradamus ritiene anche di aver trovato un indizio che indichi quando avverrà la potenziale catastrofe. Un'eclissi solare precederà e sarà la più oscura e tenebrosa che vi sia stata dalla creazione del mondo. E sarà tale che si crederà che la Terra abbia perduto il suo naturale movimento e si stia inabissando nelle tenebre eterne. Questa eclissi potrebbe essere un riferimento al Sole che blocca il centro della Via Lattea durante l'allineamento galattico? E cosa preannuncia questa immagine inquietante? Sappiamo che nei suoi scritti Nostradamus fa riferimento in modo specifico a un'eclissi molto potente del Sole, la quale segnerà l'inizio di grandi calamità che avranno luogo a livello planetario. L'allineamento galattico porterà con sé una catastrofe? La data del 2012 sarà l'inizio della fine? E perché il buco nero al centro della galassia Via Lattea sembra essere un luogo così potente? I Maya, gli Egizi, Nostradamus e le immagini del libro perduto. Tutti potrebbero fare riferimento a un raro allineamento galattico previsto per il 2012. Se fosse così, il fenomeno potrebbe avere un effetto senza precedenti sulla Terra. Le cupe profezie di Nostradamus, che alcuni credono coincidere con l'arrivo dell'allineamento galattico, sono ripetute da una serie impressionante di antiche culture. Sebbene i particolari delle singole tradizioni varino fra loro, in generale c'è una grandissima coerenza di fondo. E che si stia parlando di antiche tradizioni vediche provenienti dall'India, di tradizioni egizie, di tradizioni bibliche o maya, tutte quante dicono la stessa cosa, che stiamo andando incontro a un grande cambiamento e che la nostra vita non sarà mai più la stessa. Alla fine il lupo, il leone, il bue e l'asino. Più non cadrà per essi la dolce manna. La quartina 99 della decima centuria contiene una profezia molto seria, perché delinea l'estinzione non solo di molte specie animali, ma anche di specie vegetali, da cui l'umanità dipende e che potrebbero sparire dalla faccia della Terra. Se ciò accadesse saremmo in grave pericolo, perché su cosa altro potremmo fare affidamento in termini di risorse alimentari? E mentre si riducono i rifornimenti di viveri, si innesca una drammatica catena di eventi. È un fatto risaputo che se l'America smettesse di esportare cibo a causa di una crisi alimentare, immediatamente 100 nazioni soffrirebbero la fame e nel giro di un anno l'Africa perderebbe 500 milioni di persone a causa della carestia. Tutto ciò comporta inevitabilmente delle guerre, i governi cadono e si ha un effetto domino. È questo che mi preoccupa maggiormente in vista del 2012. La vita è stata quasi spazzata via dalla Terra già 5 volte. Potrebbe esserci un'altra grande estinzione in futuro? Gli avvertimenti di Nostradamus forse nascondono la risposta. Radio Doc. Proseguiamo con la seconda parte del radiodocumentario prodotto dalla BBC che vi proponiamo in collaborazione con History Channel. Stiamo ricostruendo attraverso le interviste ad autori catastrofisti e studiosi delle profezie di Nostradamus le teorie di chi immagina che il 2012 sarà un anno di svolta per il genere umano e il pianeta Terra. Ovviamente si tratta di teorie che in gran parte si basano su interpretazioni forse arbitrarie, ma che d'altra parte sanno cucire collegamenti tra culture e temi diversi e lontani fra loro. La cultura Maya dell'America centrale precolombiana con la Francia del 500, gli Egizi e la massoneria. Forse è proprio questa potenza suggestiva a rendere questi argomenti così attraenti per il grande pubblico. Ma per gli scettici, che vogliono rimanere coi piedi per terra, basta ricordare la definizione di Umberto Eco, che ha chiamato Nostradamus e i suoi studiosi i giocatori dell'interpretazione infinita, di un gioco, cioè, che non finirà mai, dato che il testo di riferimento è talmente vago e oscuro che permette interpretazioni sempre nuove e potenzialmente infinite. Come molti antichi profeti, Nostradamus cerca di camuffare le proprie predizioni. Non molto tempo dopo, per mare e per terra, sarà fatta una grande rivolta. E fuoco e animali faranno maggior rovina. Nella quartina 40 della seconda centuria non si fa solo riferimento a una tempesta, ma a una serie di tempeste che continuano incessantemente. La grande città dell'oceano marittimo, circondata da paludi di cristallo, nella solstizio invernale ed in primavera sarà provata da vento spaventoso. Se fossi un uomo del XVI secolo, come descriverei un luogo pieno di grattacieli fatti di vetrate dalle geometrie angolari e illuminati artificialmente da luci al neon? Non ne ho idea, ma l'espressione città circondata da paludi di cristallo mi sembra un'ottima scelta. Non è da escludere che Nostradamus si riferisse proprio al centro di New Orleans, colpito dall'uragano Katrina. Se Nostradamus predice un'escalation di violente tempeste, quale sarà l'evento culminante? Il cielo ci presagisce, per chiari segni e per stelle fisse, che un improvviso cambiamento si sta avvicinando, né per il suo bene, né per il suo male. In questa quartina, le espressioni chiari segni e stelle fisse alludono forse al sole, che sorge in linea diretta con il centro oscuro della galassia, inaugurando un'improvvisa era del cambiamento? Nostradamus e i disegni del libro perduto prevedono forse un evento cosmico che causerà la distruzione della Terra? Se davvero l'allineamento fosse in grado di provocare un cambiamento significativo sulla Terra, sottolinearne l'arrivo sarebbe di enorme importanza. È questo il messaggio che stava cercando di comunicarci Nostradamus. Sta arrivando, tenetevi pronti, state attenti, preparatevi. Non c'è altro che potete fare. Secondo le profezie di Nostradamus, le catastrofi che alcuni credono culmineranno nel 2012 stanno già iniziando ad abbattersi su di noi. Di per sé, le bombe a orologeria dei terremoti, degli tsunami e dei supervulcani sono già abbastanza spaventose, ma ora c'è chi ipotizza il verificarsi di una calamità naturale ancora più grande e che già starebbe puntando dritta verso il pianeta Terra. Nostradamus descrive chiaramente ciò che può essere considerato un disastro cosmico. Dove tutto è bene, nel sole e nella luna è abbondante, la sua rovina s'approssima. Dal cielo avanza attraverso le tue fortune, in medesimo stato che la settima roccia. Nostradamus sembra descrivere una sorta di olocausto nucleare e non deve necessariamente essere qualcosa di simile a Hiroshima o Nagasaki. Potrebbe trattarsi ad esempio di una sorta di fuga radioattiva. È difficile determinare l'esatta natura di questa energia cosmica, ma il suo impatto potrebbe essere devastante. È interessante notare che l'origine delle superonde, a quanto pare, sia proprio il centro della galassia, che ha un ruolo fondamentale nell'allineamento galattico. Quale potrebbe essere in assoluto lo scenario peggiore? Per esempio, potremmo pensare a quello che è successo alla fine dell'era glaciale. Non tutti sanno che l'ultima superonda ha spazzato via il 95% dei grandi animali dal Nord America e gran parte della specie umana dalla faccia della Terra. Direi che quello, con ogni probabilità, è stato uno degli eventi più significativi mai avvenuti in tutta la storia dell'umanità. Nostradamus intravede anche un pericolo collegato alla Bibbia. In molte delle sue profezie prevede dei problemi in Medio Oriente e, in particolare, sembra parlare della guerra in Iraq. Egli entrerà, villano malvagio, infame, tiranneggiando la Mesopotamia. Tutti amici fatti d'adulterina dama. Terra orribile e nera di fisionomia. Questa è la quartina 70 dell'ottava centuria. Secondo gli esperti, Nostradamus vede la guerra in Iraq come un conflitto religioso. A quest'ultima quartina ne è stata collegata un'altra come parte di una profezia più ampia. La grande banda e setta della croce si innalzerà in Mesopotamia, del vicino fiume Compagnia Leggera, che quella legge terrà per nemica. Al sollevante un gran fuoco si vedrà, rumore e chiarore rivolti verso Aquilone. Dentro il cerchio si udranno morti e grida. Per spada, fuoco e fame, la morte li attenderà. Con le sue agghiaccianti profezie, Nostradamus vuole spaventarci a morte. E lo fa per assicurarsi che smetteremo di maltrattare il nostro pianeta. È possibile che la storia dell'allineamento galattico sia solo un modo per farci prendere coscienza dei nostri errori? È probabile che il cataclisma di cui è stato predetto l'arrivo non sia qualcosa di così tragico, ma più che altro un modo per farci aprire gli occhi. Se c'è qualcosa che possiamo prendere da Nostradamus, è sicuramente un senso di speranza. È come se volesse dirci che, nonostante le guerre, le carestie e l'olocausto nucleare, l'umanità sopravviverà. Credo che la domanda a cui dobbiamo rispondere ora è: abbiamo il coraggio di fondere la saggezza del nostro passato con il sapere scientifico di oggi? Dove ci condurrà questo nuovo tipo di approccio dopo il 21 dicembre del 2012? Alcuni sostengono che la fine del calendario Maya porti con sé un messaggio di speranza, che il 21 dicembre del 2012 in realtà non segni la fine di tutto, ma piuttosto la conclusione di un'era e l'inizio di un'altra. Se uniremo l'antica saggezza al sapere contemporaneo, riusciremo ad andare avanti. Nonostante sia celebre per le sue cupe previsioni e i suoi terribili ammonimenti, Nostradamus non parla mai di un futuro ineluttabile per sempre scolpito nella pietra, ma di possibili scenari che gli esseri umani con le loro azioni sono in grado di determinare. Bisogna ricordare che questo è il profeta che ha predetto al suo re due possibili futuri da perseguire. In uno sarà un grande unificatore, un nuovo Carlo Magno, nell'altro morirà durante un torneo. Non si possono perseguire entrambi i futuri. Gli viene data la possibilità di scegliere, a noi tutti viene data. O cambiare e aprire la strada a una nuova umanità, o perseverare nei nostri errori e lasciare che un giorno o l'altro la specie umana venga cancellata dalla faccia della Terra. Le culture fioriscono e decadono. Le civiltà sorgono e tramontano. E anche il potente profeta Nostradamus è, in fin dei conti, un semplice mortale. Ma il suo messaggio perdura nel tempo, invitandoci a fare una scelta. Decidere di sopravvivere o soccombere. Il cambiamento sarà forte, difficile. Città, provincia, al cambio guadagnerà. Con cuore alto, prudente messo, ritrovata armonia. Mare, terra, popolo, suo stato cambierà. Non penso che ci saranno grandi cambiamenti la mattina del 21 dicembre 2012. Non atterreranno gli UFO. La Terra non verrà colpita da una cometa. Ma ci sarà un giorno in cui, guardandoci indietro, tutti potremmo dire: eh già. E se tutto andrà bene, inizieremo a incamminarci verso un futuro migliore. Vi segnaliamo che la versione integrale di questo documentario andrà in onda nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 1 ottobre su History Channel a 1:00. Radio Doc vi dà appuntamento a domenica prossima. Buonanotte.